Proviamo dei collegamenti che non erano previsti per la trasmissione di Cinema Visionari il giovedì dalle 14 alle 15. Ritroviamo Patrizia Salvatori. Ci sei, Patrizia? Eccoci, buon pomeriggio, salve, ciao a tutti. Era passato un po' di tempo con te questa volta per parlare di nuovo, come ogni anno del resto, del Festival delle Scritture Cinematografiche Pigneto 013, decima edizione, dal 10 al 15 dicembre prossimo, quindi da martedì 10 dicembre. Patrizia, esatto. Dici un po'. Dunque, è un festival piccolissimo, come sempre, come sin dalle sue origini, il Festival delle Scritture Cinematografiche, che quest'anno appunto compie gli anni e diventa un po' più grandino, ce n'ha 10 adesso, ma resta comunque una piccola kermesse di tipo tutto squisitamente teorico, dove ogni anno si prevede un tema, e quest'anno tra l'altro, oltre a prevedere il tema dell'anno, abbiamo deciso anche di dedicare lo spazio proprio per il compleanno del Cineclub Alphaville ospitare il nostro piccolo festival tutto all'interno del Cineclub, anche se gli appuntamenti sono tantissimi e sono tutti appunto secondo il tema, che è il cinema che ha fatto grande la storia del cinema. Come sai, Federico, da qualche tempo ormai diciamo tutti gli schermi, anche gli schermi più convenzionali, più tradizionali, hanno dedicato un'attenzione particolare alla storia del cinema, alla riesumazione tra virgolette, che in realtà vuol dire rimasterizzazione, restauro di grandi opere cinematografiche che hanno fatto grandi il cinema. Noi Cineclub, insomma, da tanto tempo dedichiamo attenzione alla memoria del cinema dei grandi autori, e quindi quest'anno abbiamo voluto celebrarla con alcuni tra i film più importanti, diciamo, che la storia del cinema ci ha lasciato e che hanno segnato davvero uno spartiacque tra un modo di fare cinema antico e un modo di fare cinema moderno. Non so se hai letto, sicuramente l'avrei letto con attenzione, perché so quanto ti piacciono i film della grande storia del cinema, Federico. Sì. Ci sono film assolutamente imperdibili, ad esempio c'è Parigi ci appartiene di Jacques Rivette, anche perché il festival analizza un po' le correnti cinematografiche che hanno cambiato le sorti del cinema come settima arte. Quindi si parte per esempio dalla Nouvelle Vague di Jacques Rivette, che è una prima in assoluto al Cineclub Alphaville. Faremo vedere Parigi ci appartiene, questa incredibile storia diciamo che arriva all'ambire degli anni 60 e che tra politica, socializzazione e storie private ci fa conoscere, diciamo, quelli che sono poi i prodromi della Nouvelle Vague, che sarà quel grande nuovo corso che ad Alphaville spesso poi viene ospitato, e chiaramente che ha i suoi grandi nei Truffaut, Godard, sì, e Jacques Rivette, anche sì, Chabrol, sì, Romer, sì, e quant'altri. E quindi partiamo alla grande con Parigi ci appartiene, ma continuiamo con Citizen Kane, Quarto potere di Orson Welles, che è il grande film che tutti conosciamo e che fa bene rivedere perché ha cambiato le sorti del linguaggio tecnico e semantico della storia del cinema, e così come Derso Uzzala, anche questo per la prima volta sugli schermi di Alphaville, il rapporto tra uomo e natura secondo il grandissimo regista giapponese Kurosawa. Ma abbiamo anche i 178 minuti in versione rimasterizzata e restaurata delle Enfants du Paradis di Marcel Carné, dove per la prima volta il realismo poetico diventa precedente appunto a quello che sarà poi il nostro neorealismo italiano. Abbiamo appunto con il grande Mimmo Jean-Louis Barrault, ovviamente, e abbiamo anche il nostro neorealismo con Rossellini su Rossellini, uno splendido documentario dedicato forse a uno dei più grandi registi che il mondo ci invidia e che continua appunto ad onorare. Ed abbiamo anche ovviamente Metropolis di Fritz Lang nella versione restaurata di 35 minuti, ritrovati a Buenos Aires. In tutto questo gli ospiti sono coloro i quali presenteranno tutti questi film e anche altro, libri e ancora altre cose. Sono ospiti di tutto rilievo che in qualche modo hanno accompagnato questi 10 anni del Cineclub Alphaville, e sono quindi tutti ospiti, diciamo, che periodicamente si alternano alla conduzione di alcune rassegne all'interno del nostro Cineclub. Ci sarà musica jazz live, ci saranno presentazioni di libri, un workshop libero sull'importanza del cult movie condotto da me, ci sarà un brindisi per i 10 anni del Cineclub Alphaville. Insomma, noi vi aspettiamo, Federico. Eh sì, del resto poi sei sempre estremamente puntuale nel rivelare tutto quello che ci aspetterà. Sei stata piuttosto completa. Io, Patrizia, ti ringrazio e veramente un in bocca al lupo, perché si tratta di una decima edizione, quindi anche un numero importante. Diamo i riferimenti per chi volesse saperne di più sulla programmazione? Sul web? Sì, certo, allora basta andare sul sito www.cineclubalsavil.it, oppure se volete, insomma, potete addirittura scriverci, ma dentro a questo sito, che peraltro voglio ricordare è new praticamente, non so se sia stato pubblicato proprio in queste ore, comunque abbiamo rinnovato un po' il nostro sito e quindi è ancora più facile trovare tutto, trovare i nostri appuntamenti periodici, i nostri format, le cose che facciamo durante tutto l'anno. Federico, io ti aspetto però, perché mi piacerebbe molto che tu venissi ad ascoltare uno dei nostri pregiatissimi ospiti che introduce un film, e poi così me ne parli e mi dici che ne pensi. Va bene, quindi ci facciamo anche due chiacchiere. Benissimo. Ci facciamo anche due chiacchiere. Ti aspetto veramente, mi fa molto piacere. Quando vuoi, tanto le programmazioni delle serate sono tutte ugualmente interessanti e ricche di spunti. T'abbraccio, Patrizia. Grazie a voi, buona giornata, buon pomeriggio, ciao. A presto, ciao. Bene, Patrizia Salvatori, per quanto riguarda questa decima edizione del Festival delle Scritture Cinematografiche Pigneto 013, dal 10 al 15 dicembre, e siamo in collegamento con Pronto ci sei, Rolando Colla. Sì, ciao. Regista di Giochi d'estate, uscito in sala il 28 novembre scorso, se non sbaglio, giovedì della scorsa settimana. Giusto. Allora, intanto di cosa si tratta, Rolando, e benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. È la storia di ragazzini che si incontrano durante una vacanza, e il protagonista, che viene da una famiglia con un padre violento, propone dei giochi violenti agli altri e nello stesso tempo si innamora di una ragazzina e comincia a cambiare, comincia anche a staccarsi dal padre, a ribellarsi. Una storia, secondo me, che può parlarci di quello che eravamo da ragazzini, e che l'infanzia non è per forza una fase romantica come spesso viene invece raccontato dal cinema. Oh, se non sbaglio, c'era stata qui a Roma una presentazione anche nell'ambito della giornata mondiale contro la violenza sulle donne, o sbaglio? No, non ti sbagli, effettivamente la madre è naturalmente, diciamo, una vittima della violenza del padre in questa storia, ma sarebbe un errore vedere il film solo sotto questo aspetto. È un film che ha dei momenti di grande gioia, di grandi emozioni. Era stato selezionato per Venezia, era candidato all'Oscar, è stato a Toronto, è stato venduto in 60 paesi. È veramente un film che va scoperto, non bisogna ridurlo a questo aspetto della violenza alla donna. Sì. Senti, come è nato tutto il progetto, l'idea di farne un film? Ma direi che io, siccome faccio cinema d'autore, a un certo momento mi chiedo cos'è la storia che vorrei raccontare, se fosse l'ultima che posso raccontare, perché è difficile finanziare un film, perché in qualsiasi momento uno può anche andarsene per sempre, ed era questa la storia, perché è legata alla mia infanzia e volevo raccontarla. Diciamo, una motivazione molto personale. Senti, si tratta di una coproduzione europea, se non sbaglio. Sì, è una coproduzione tra la Svizzera e l'Italia, con Amedeo Pagani, con Eurimage, un film che ha avuto anche un successo internazionale. Senti, per la realizzazione del cast su cosa ti sei basato? Beh, mi sono basato sulla mia intuizione, direi, perché tu incontri degli attori e poi devi decidere intuitivamente chi è l'attore che può vivere il personaggio senza giudicarlo, dargli quella umanità che deve avere, anche se è un personaggio negativo come il padre, anche se è una vittima come la madre. Chi è che può riuscire a dare a questi personaggi vita? Questo è, diciamo, il criterio per gli adulti. Ho visto anche la diffusione che siete riusciti a dargli in ambito internazionale. Quali sono, secondo te, gli elementi universali di questa storia? Ma gli elementi universali sono prima di tutto il modo arcaico dell'essere umano, nella violenza, di esistere nella violenza, di avere bisogno di esprimersi attraverso la violenza, che è una cosa che è difficile da combattere, che è una specie di difetto umano, direi. Questa è la, diciamo, la base della storia, come uscirne, come farsi aiutare per uscire da questo. Il padre non ci riesce, il ragazzino in qualche modo fa un primo passo. Direi che probabilmente è una questione di rispetto alle capacità e alle possibilità di incanalare questo impulso alla violenza. Sì, e forse anche capire che nella violenza stessa non è che c'è empatia, nella violenza c'è solo egoismo e feroce, e se tu cominci a amare qualcuno, la violenza in fondo non va più bene utilizzarla, è anche un po' nel disprezzo, nell'odio, nella frustrazione che ti esce la violenza. Sì, il ragazzino che comincia a innamorarsi, più va avanti il film, più va avanti la storia, non può più accettare la propria violenza, ma meno ancora quella del padre. Rolando, dopo una settimana un primo bilancio, e poi dove è possibile trovarlo in sala, in quante copie è uscito? A questo io non lo so, ma mi hanno chiesto di mettermi in contatto con voi, mi fa piacere che ci sia un interesse da parte vostra. Tutto quello che riguarda la distribuzione in Italia è il distributore italiano che se ne occupa e che sa quante copie, in che sale, eccetera eccetera. Benissimo, diamo un riferimento web per sia per il film che per la tua attività? Chi volesse informarsi di più sui film che ho fatto e sui prossimi che penso di fare è www.peacock.ch. La Peacock è la casa di produzione svizzera. Benissimo. Rolando, io ti ringrazio e spero a questo punto a risentirci anche per prossime novità. Ma dai, speriamo. Un abbraccio, a presto. Anche a te, ciao. Ciao. Ciao. Rolando Colla, regista di Giochi d'estate, uscito in sala il 28 novembre scorso. Allora, per saperne di più, i riferimenti sono riguardo a Visionari sul sito internet della radio ondarossa.info, la voce trasmissioni Visionari, e c'è la pagina Facebook, e per comunicare con noi l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Siamo in collegamento con Enni Mazzella, vicepresidente del coordinamento Festival Cinematografici Campania, che è stato presentato il 30 novembre scorso. Enni, ben ritrovata a Visionari. Ciao, ben ritrovato a te e a tutto il pubblico. Allora Enni, mi sembra un passo che ha un certo peso, insomma, la nascita di un coordinamento in Campania riguardo ai vari festival cinematografici che la animano. Sì, devo dire che questa è un po' la punta dell'iceberg, nel senso che noi siamo arrivati a questa conferenza stampa di presentazione dopo oltre un anno di lavoro tra di noi, di coordinamento appunto, di incontri tra oltre 17 festival in tutto, in tutte le festival. Questo ringraziare pubblicamente il nostro presidente che è quello. E ti sento, dovresti trovare un'altra postazione perché ti sento molto disturbato. Allora provo a spostarmi perché è possibile che ci sia qualche problema di campo, visto che c'è un po' di tempaccio, a dirti il vero. È riuscita un pochino meglio così? Poco meglio. Poco meglio, cerco proprio di raggiungere l'aria aperta, guarda Federico, forse è la cosa migliore in assoluto. Ecco, adesso ti sento bene. E allora non mi muovo più, okay. Guarda. Allora dicevi, scusami. Dicevo che tutto questo è nato su input di Giuseppe Colella del Napoli Film Festival, che ha voluto incontrarci una prima volta lo scorso anno a Castel Sant'Elmo e ha in effetti colto quella che era un'esigenza un po' di tutti noi, perché è da tempo che desideravamo creare un qualcosa che potesse accomunarci, che potesse in qualche modo dare valore a quello che svolgiamo come operatori culturali sul territorio, ma anche rapportarsi un po' con le istituzioni, anche nell'obiettivo comune magari di ottenere anche in Campania una legge cinema, visto che le altre regioni pian piano si stanno dotando di questo importante strumento che pensiamo sia necessario anche nella regione Campania. Mm-hmm. Ma al di là di tutto questo, che è un po' l'aspetto, diciamo, istituzionale del coordinamento, c'è poi tutto un fermento culturale, perché è molto positivo rapportarsi tra direttori. Io, per quanto mi riguarda, sono direttrice organizzativa dell'Ischia Film Festival, ma anche il rapporto tra direttori artistici è fondamentale, perché molto spesso favorisce la circuitazione delle opere più importanti, favorisce anche quello che può essere un discorso anche più economico nel rapportarsi con i fornitori, nell'ottenere le soluzioni migliori, anche nel migliorare un po', qualificare sempre di più tutti i nostri eventi. Sì. Grazie a questa cooperazione, a questa collaborazione. Ecco, Annie, dicevi della circuitazione delle opere, mi veniva in mente anche l'esperienza appena precedente del coordinamento dei festival milanesi, e lì anche uno dei alcuni dei vantaggi rispetto alla nascita di questa entità è quella poi del riuscire a distribuire lungo tutto l'anno le varie rassegne e quindi dare, oltre a forza e visibilità, una maggiore offerta più distribuita, meglio distribuita anche nel corso dell'anno. Hai perfettamente ragione, sfondi una porta aperta. Intanto pensa che questo della Lombardia è stato per noi anche un ottimo esempio, che abbiamo seguito molto volentieri. Per quanto ci riguarda, alcuni di noi sono anche soci dell'AFIC, l'Associazione dei Festival Cinematografici Italiani, dove appunto la Lombardia si è andata anche un attimo a inserire per rapportare, ed è quello che farò anch'io il prossimo 17-18 dicembre, quando avremo la riunione dell'AFIC, nel portare questa voce campana anche in seno a un coordinamento nazionale. Mm-hmm. Considera che tra i nostri obiettivi c'è anche quello di una mediateca comune, di realizzare un portale che possa mettere in rete le opere che noi stessi poi andiamo a proiettare. La distribuzione è un passo importante, coraggioso, ma è sicuramente uno dei nostri obiettivi più prossimi, perché comunque è proprio mission dei festival quella di dare visibilità alle opere che spesso non trovano una collocazione nei circuiti. Mm-hmm. più normali, quelli delle sale cinematografiche, che troppo spesso guardano un discorso solo puramente commerciale, che nei festival invece non esiste. E diciamo che noi diamo principalmente spazio alla qualità, alla ricerca e al valore delle opere, indipendentemente dal risvolto commerciale. Mi dicevi 17 festival raggruppati. Sì, me lo consenti di citarteli tutti, anche per dare a ognuno di loro il suo meritato spazio? Va bene, diamo questa carrellata di nomi. Allora, cercherò di essere velocissima. Corto di Donne, Cinefort Festival, Corto Nero, Faito Doc Festival, Festival del Cinema dei Diritti Umani, che in questi giorni si sta svolgendo a Napoli, e vi do un appuntamento al Cinema Astra fino al 13 dicembre. Poi abbiamo ancora Intima Lente, Ischia Film Festival, Linea d'Ombra, Marano Ragazzi Spot Festival, Mediterraneo Video Festival, Mitreo Film Festival, che si svolgerà invece dal 10 al 14 dicembre, Napoli Film Festival, O Movies, che vi dà appuntamento dal 18 al 20 dicembre. Come vedi, dicembre è un mese di fermento culturale. Sì. E poi abbiamo ancora tra i nostri il Premio Nazionale Bernardino Zapponi per cortometraggi, Schermo Napoli, Social World Film Festival e Valsele International Film Festival. Benissimo, mi sembra un raggruppamento anche con ricco di diverse anime. Annie, a questo punto diamo anche un riferimento web per capire meglio questo nuovo soggetto. Certo, ci trovate su www.festivalcinemacampania.it e ci auguriamo di avere molte vostre visite. Benissimo. Annie, un abbraccio, a risentirci per le prossime Grazie novità. Grazie a te, un saluto a tutti. Ciao, ciao. Ciao. Annie Mazzella, vicepresidente del coordinamento Festival Cinematografici Campania, presentato il 30 novembre scorso. E anche stavolta troviamo un festival di cui trattiamo ogni anno, e si tratta della 23esima edizione, questa volta, del Courmayeur Noir in Festival, dal 10 al 15 dicembre, e ne parliamo con il suo direttore Giorgio Gosetti. Ben ritrovato a Visionari. Grazie, ho capito che la premessa dice che abbiamo parlato già 22 volte, vediamo cosa succede alla 23esima. Beh, no, posso dirti al volo che sì, Maestro Fabri ed io che lo dirigiamo siamo veramente molto contenti di edizione di quest'anno, perché considerate poi le difficoltà in cui tutti i festival hanno lavorato e lavorano, abbiamo avuto una gran fortuna e una grande solidarietà. Devo dire, un panorama cinematografico e letterario come quello di quest'anno poche volte ti riesce, e quando ti riesce per di più in un'annata così difficile sei molto molto felice. Oggi siamo sugli scudi, in particolare perché ieri è stato fatto il junket a Los Angeles di presentazione dello Hobbit 2, e si racconta e si dice per l'appunto che il film sbarca poi in una giornata maratona dello Hobbit a Courmayeur il 12 di dicembre, e tu mi domanderai subito dopo, così faccio come Marzullo, che c'entra lo Hobbit con Festival? Va bene, facciamo che te l'ho fatta la domanda, dai. C'entra semplicemente perché da anni ci preoccupiamo di avere un percorso nella fantasia, nelle fiabe, anche nelle fiabe a tinte cupe, diciamo così, che dominano l'immaginario di bambini e ragazzi, perché ci sembra giusto anche che il noir si declini in modi diversi, e quindi tanto più con La maledizione di Smaug, che è un film molto a tinte più nere del primo Hobbit, e quindi lascerà abbastanza sorprese. Ma insomma non è l'unica licenza poetica che ci concediamo, abbiamo perfino l'anteprima nazionale insieme a Sotto 18 a Torino di Piovono Polpette 2, quindi guarda, stiamo parlando di roba serissima. Invece, tra le altre cose che mi sono arrivate rispetto al noir, vedo l'anteprima di Neve di Stefano Incerti, Offstage Work in Progress di Francesco Cinquemani, insomma un po' di cose interessanti sotto mano le avete? Sì, per Dio, apriamo con la prima internazionale del nuovo film di Atom e Goyan. Fino a prova contraria, con Colin Firth, sì, abbiamo diverse cose importanti, ed è molto bello che, parlando di cose importanti, alla voce Italia non ci sia nella tabellina il solito zero, ma al contrario ci siano registi importanti come Stefano Incerti. Neve è una vera scommessa, e se Incerti napoletano fa un noir vero e proprio e lo chiama Neve, se non va al Courmayeur Noir in Festival in cima alla Val d'Aosta, anche se in realtà è girato in Abruzzo con Roberto De Francesco e Estere Liscia, è grave. E poi hai citato Francesco Cinquemani, di cui in realtà presentiamo un vero e proprio work in progress, perché Offstage è uno straordinario documentario. Io sono rimasto veramente colpito sulle vere storie dei protagonisti di Cesare deve morire, dei Fratelli Italiani, in cui c'è una fotografia dell'Italia criminale di 30 anni. Il film non è ancora finito, è un gran bel lavoro a cavallo fra teatro, realtà, cinema, in fondo anche letteratura, ma siamo molto orgogliosi di averlo, così come di avere in concorso Vino dentro di Ferdinando Vicentini Orgnani e la voce di Augusto Zucchi, che chiude il festival. Una curiosità, Giorgio, storicamente, rispetto alle tante edizioni del Courmayeur Noir, mi dicevi delle difficoltà nel trovare titoli italiani. Ecco, come mai una produzione così striminzita in ambito noir da parte dell'Italia? Beh, in realtà piano, noi da 3 anni insieme a Cinecittà Luce stiamo facendo un vero e proprio osservatorio sul cinema italiano e i generi, sì. E un anno dopo l'altro stiamo vedendo e verificando che quel cortocircuito virtuoso che noi auspicavamo fra chi scrive di inchiesta, cioè i giornalisti, chi scrive inventando, cioè gli scrittori, gli storici che hanno la memoria dell'Italia, e i cineasti, si sta cominciando a saldare. E quindi poi un festival raccoglie, come diceva Gillo Pontecorvo, i funghi che sono venuti a maturazione in stagione, ma se guardo un momento all'indietro penso volentieri a Take Five, che stava in concorso a Roma, e che è a suo modo una straordinaria black comedy fra Operazione San Gennaro e Tarantino. Insomma, no, di prodotto comincia a essercene in giro. Questo grazie anche, bello e interessante. Secondo me, grazie anche a un po' a uno sguardo un po' più internazionale dei nostri autori, anche la loro formazione, il loro viaggiare, muoversi molto più rispetto a qualche anno fa. Ah, guarda, da questo punto di vista, appunto, l'osservatorio di Vedo Nero di quest'anno è abbastanza strepitoso, perché ci occupiamo delle fabbriche dell'horror italiano e confesso che io per primo sono andato a mettere il naso in questo territorio di cui avevamo perso un po', come dire, le informazioni, i rapporti da Dario Argento, sì, e infatti sarà lui il dominus della giornata, e poi Federico Zampaglione, d'accordo, Shadow fino a Tulpa, ma dietro tutto questo si muove una realtà di cineasti italiani i cui nomi spesso non sono nemmeno noti al grande pubblico, che hanno invece una vitalità internazionale strepitosa. Boni e Ristori lavorano con Uwe Seel e con le grandi macchine del cinema di genere internazionale. Jonathan Tarantonello gira in America. Noi presentiamo un'opera prima di Riccardo Paoletti che si chiama Never Lake, che è il titolo uno dei titoli italiani, o forse il titolo italiano più venduto all'estero in sala di quest'anno. Poi Domiziano Cristofaro, Ivan Zuccon, Alberto Bianchini, dei nomi veramente da annotarsi. D'altra parte ti ricorderai che quest'anno, un po' a sorpresa, ci siamo ritrovati fra gli autocandidati all'Oscar John Real. Beh, noi vediamo che faccia a John Real e chi è, e perché Midway è stato un fenomeno oggettivamente. Giorgio, allora, dal punto di vista strettamente cinematografico, quante sono le opere che presenterete quest'anno? Sono 10 film in concorso, 3 film fuori concorso di gran nomi, per l'amor di Dio, perché c'è The Counselor, il procuratore di Ridley Scott, c'è il nuovo film di Johnny Toe, Blind Detective, quindi stiamo ad un livello molto alto e molto spettacolare, e poi una serie di eventi appunto dedicati anche ai giovani ragazzi, compresa l'anteprima del Castello Magico, che sabato chiuderà la parte fantasy del festival insieme a un strepitoso flauto magico reinventato a cartoon per proprio bambini da Enzo Dalò con la penna di Vincenzo Cerami, ci piace anche ricordarlo così. Dal punto di vista poi letterario le cose si incrociano, noi teniamo a battesimo il debutto come scrittore di Enrico Vanzina, per esempio. Ebbene sì, il più chandleriano degli scrittori italiani dell'anno. Senti Giorgio, io oltre ad augurarti un in bocca al lupo per questa 23esima edizione, ti do anche appuntamento alle trasmissioni, alle puntate di Visionari di fine anno e inizio 2014, dove come al solito facciamo questo simpatico gioco delle cinquine dei migliori film a nostro avviso usciti in sala nel corso di quest'anno cinematografico. E qui faccio uno strappo alle regole e lasciatemi dire, perché mi interessa come Courmayeur, di dire che secondo me fra gli autori che ci andranno in quelle cinquine ci dovrebbe proprio essere Denis Villeneuve, perché Prisoners, che è uscito in sala, è secondo me un film abbastanza strepitoso, pensando poi che Denis Villeneuve è il canadese della donna che canta, cioè sì, non è un ragazzotto da studios hollywoodiani. E lo dico oggi, lo cito oggi, perché fra i film che abbiamo a Courmayeur c'è Enemy. Enemy è il film gemello di Prisoners, che Denis Villeneuve ha girato praticamente in parallelo con lo stesso protagonista, Jack Gyllenhaal, è tratto da un romanzo di José Saramago, e lo dico oggi perché questo film non ha ancora una distribuzione per l'Italia e mi piacerebbe che qualcuno drizzasse le orecchie, perché ne vale davvero la pena. Bene Giorgio, allora io ti abbraccio e a prestissimo. E grazie mille. Buona giornata e buona continuazione a voi. Ciao ciao. Ciao. Giorgio Cosetti, direttore della 23esima edizione del Courmayeur Noir in Festival dal 10 al 15 dicembre. Bene, vi ricordo anche che le informazioni sulla scaletta di oggi le trovate sul sito internet della radio ondarossa.info, alla voce trasmissioni visionari. Gli ospiti di questa puntata, le uscite in sala di oggi giovedì 5 dicembre, i nostri suggerimenti, indicazioni sui film già in programmazione a Roma e provincia, i film in TV per quanto riguarda il piccolo schermo e poi gli altri appuntamenti della settimana tra festival, rassegne e proiezioni, e poi il link della puntata della settimana scorsa e poi tutto l'archivio del 2013 e del 2012. Siamo in collegamento con Cesare Frangelli di Microcinema, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, con te per parlare di un piccolo caso cinematografico, quello di Pompei, che è uscito in sala il 25 novembre scorso, la scorsa settimana, per due giornate e poi c'è rimasto e ha fatto anche degli incassi notevoli, giusto Cesare? Sì, in realtà è un film documentario, la prima produzione audiovisiva del British Museum di Londra. Racconta la storia di Ercolano e Pompei, è la vera storia in una ricostruzione curata nei minimi dettagli che poi apre uno spazio a una mostra espositiva che è stata curata proprio dal British. È una vera sorpresa, una vittoria della cultura. Il film ha chiuso con una media copia di 4.000 euro a cinema, quindi un grande successo che ha portato poi molti degli esercenti italiani a programmarlo in maniera ordinaria, quindi tutti i giorni. E il film è presente in tutti i capozona, da Roma a Milano, a Firenze, a Bologna, a Padova, quindi questa è una grande conquista per un argomento che appartiene, diciamo, a noi, a tutta l'Italia, alla storia di Pompei Ercolano, che rimangono dei fari importantissimi per la nostra cultura, nonostante tutto quello che oggi accade in quegli scavi che la cronaca ci racconta. Infatti, proprio a proposito di cronaca, la prima immagine che viene in mente sono i crolli che sta subendo Pompei negli ultimi tempi, e il fatto che di Pompei alla fine ne parli in maniera poi così convincente, riuscita e ricca di mezzi una produzione inglese, un museo in questo caso. Sì, no, guardi, io con grande onestà non amo ricevere gli insegnamenti né dagli inglesi né dagli italiani, però penso che il mondo, certo, il mondo e la cultura appartenga a tutti, quindi bisogna riconoscere dei meriti che il British Museum ha avuto quando nello stesso la cultura fa parte del nostro mondo. È inutile che raccontiamo o alziamo barriere, certo, intellettualistiche inutili. Ha avuto il grande merito il British Museum di saper accendere riflettori su una parte della storia d'Italia che, ahimè, in questo momento era stata dimenticata. Quindi io mi auguro solo, al di là del nostro risultato cinema, che noi siamo ovviamente legati ad un'industria culturale, industria perché dobbiamo anche guadagnare del denaro facendo cultura, e questa è l'unica verità assoluta. Poi possiamo fare gli intellettuali e dire è bellissimo portare questi contenuti al cinema, sicuramente. Io spero che questo incantevole spettacolo porterà il pubblico e tutta l'Italia a darsi una mossa, si usa dire nel bellissimo sud Italia dove Pompei è collocata. Quindi è un patrimonio di tutti e bisogna recuperarlo in fretta e accendere questi riflettori. Ecco, mi auguro che questo nostro piccolo film possa contribuire anche a questo, senza farne però una polemica. No, figurati, certo. Assolutamente. No. Senti Cesare, mi parlavi di una ricostruzione accurata, quindi immagino che i tempi di realizzazione siano stati anche abbastanza estesi per Pompei. Sì, sì, sì. Sono stati abbastanza estesi. In realtà il curatore poi della mostra è un progetto che viene presentato come un progetto di 2 anni, in realtà non è così, diciamocela tutta, perché quando il direttore ha presentato, Mel McGregor ha presentato questa prestigiosa vetrina su Pompei, si parla di una ricostruzione di 2 anni, è stata fatta anche grazie comunque al museo, che ha dato in esclusiva molti bei repertori e reperti che sono all'interno degli scavi. Mm-hmm. In realtà il progetto è molto più lungo, perché c'è prima un accurato lavoro degli storici, di un gruppo di storici che hanno lavorato per 2 anni alla stesura di questa grandissima mostra, che poi ne è diventata un film e un prodotto audiovisivo per le sale. Come tutte le cose che si curano nel dettaglio, ci sono tempi importanti. Sì, sì. E io sinceramente consiglio, al di là del lapalissiano conflitto di interesse nel dire questa cosa, di andarlo a vedere, perché credo che sia un contenuto che ha quell'unicità importante culturale, che può aiutare la cultura della bellezza, che dobbiamo ricordare ha sempre salvato qualsiasi paese del mondo. Ecco Cesare, proprio a proposito di questo, dal punto di vista strettamente da spettatore, come è strutturato narrativamente il film? C'è una prima parte che è una ricostruzione storica proprio sulla distruzione di queste due cittadine. E quindi ovviamente c'è un grossissimo lavoro fatto in studio di ricostruzione grafica, un po' quello che facilmente si potrebbe chiamare anche un mockumentary fiction, poco usato nel linguaggio cinematografico italiano, quindi c'è proprio una ricostruzione della distruzione. Attraverso questa ricostruzione, in un linguaggio di amo cinematografico, si entra invece poi nella mostra, dove un relatore accompagna lo spettatore a conoscere, mediante l'escamotage dell'oggetto filmico che è in scena e quindi di tutti i reperti, si apre un racconto per raccontare che cos'è stata quella civiltà, che cos'era l'Italia, che qual era la forza di Pompeo Ercolano. E quindi è bellissimo, perché ti trovi in un viaggio, incomincia a navigare nella storia attraverso dei racconti con quel umorismo, anche se vogliamo britannico, che accompagna 10 minuti anche esilaranti, comici, dove ci sono tutti questi reperti dalle forme falliche molto divertenti. Quindi cioè, è ricostruito sì per dare ampio spazio alla cultura, ma non dimentica di essere un prodotto anche di intrattenimento. Mm-hmm. Quindi riesce a mettere insieme una ricostruzione che agli occhi del pubblico ne è gradevole anche la visione, e si passa in sala 1 ora e mezza piacevole. Ecco, arriviamo alla realtà microcinema, che è una struttura che del digitale in sala ha fatto una parte importante del proprio percorso. Ecco, ci racconti un po' questo soggetto, microcinema, Cesare? Allora, microcinema distribuzione nasce in realtà in maniera prepotente negli ultimi 2 anni, ma non dobbiamo ricordare che è la prima azienda invece che ha sperimentato il digitale in Italia attraverso il satellite. Quindi è un'azienda che nasce alla base da un esperimento pilota di veicolare il contenuto audiovisivo attraverso il satellite, quindi spostare, per intenderci, un film da una centrale ai cinema attraverso dei satelliti, quindi eliminando la pellicola, quello che oggi è la normalità. E 10 anni fa, quando Microcinema ha iniziato a fare questo percorso, era avanguardia, quindi ha sperimentato questo linguaggio in Italia. La diffusione è la possibilità di abbattere dei costi importanti, che erano quelli della stampa della copia pellicola, ha permesso alla Microcinema nel tempo ad avere sempre più questo carattere culturale, fare una ricerca hard house del contenuto, quindi si è potuta permettere di veicolare in sala dei contenuti che stamparli sulla pellicola sarebbe stato impossibile per una questione di costo. Poi ci si aggiunge il fatto che il carattere editoriale, quello della ricerca qualitativa dell'audiovisivo, i due elementi hanno fatto sì che oggi Microcinema sia per molti un riferimento di distributore di contenuti di qualità. Rappresentiamo gran parte dei teatri di opera lirica di tutto il mondo, facendo delle dirette dal Metropolitan di New York, in collaborazione invece con la Rai la Scala di Milano, il San Carlo e diversi teatri italiani di opera lirica, facciamo le riprese all'interno dei teatri, in diretta li mandiamo al cinema, quindi accresciamo questo carattere culturale importante e vogliamo essere quel segmento di mercato, quella parte di mercato che hanno deciso di sposare la cultura, non dimenticando mai di essere anche industria culturale e quindi che siamo un'azienda che necessariamente deve creare dei profitti da quello che fa, e noi crediamo che la cultura possa essere questo oggi. Cesare, io ti ringrazio, magari a presto per sapere nuove cose rispetto alla distribuzione in sala. Io ringrazio voi e i vostri ascoltatori. Buona giornata, grazie. Altrettanto, ciao Cesare. Cesare Frangelli di Microcinema sul caso Pompei, uscito in sala il 25 novembre scorso e poi è risultato insomma un caso a livello di visioni di pubblico. Parliamo ora di documentari con Massimo Carozzi del collettivo Zimmer Fry, regista del documentario Hometown Mutonia. Massimo, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao a tutti. Allora, si parla di una comunità importante, soprattutto per la scena underground, techno, chi più ne ha più ne metta, di questo paese, soprattutto penso agli inizi degli anni 90. Giusto Massimo? Sì, Mutual Duest Company sono diciamo un gruppo che ha molte diramazioni di artisti diciamo del riciclo. E la diramazione italiana è arrivata in Italia e più precisamente a Sant'Arcangelo di Romagna nel 1990 e vennero per partecipare al Festival di Sant'Arcangelo con una delle loro performance e poi semplicemente le cose hanno fatto in modo che loro si stabilissero qua. E negli anni 90 sono stati abbastanza importanti soprattutto per la scena rave. Io mi ricordo di essere entrato in contatto con loro proprio all'inizio nel 90, intorno al 91 fecero una performance incredibile all'Isola del Cantiere qui a Bologna. Sì. E poi diciamo hanno continuato per tutti gli anni 90 con i loro lavori a frequentare la scena, sia quella dei centri sociali che quella dei rave qua in Italia. Allora, come si caratterizza un po' la comunità di Sant'Arcangelo? Sono al momento a Mutonia vivono 20-25 persone. Sì. Diciamo degli originari, quelli che ovvero sono arrivati negli anni 90 sono in 5-6, sono tutti britannici, scozzesi, inglesi, irlandesi e poi nel corso del tempo lì al campo si sono aggiunte altre persone. Sì, sì. Che non sono direttamente entrate a far parte della Mutual Duest Company come gruppo artistico, ma che semplicemente si sono fermate lì a vivere. Un'altra cosa volevo sapere Massimo, le varie tribes in cui si è suddivisa questa esperienza, quali caratteristiche hanno più o meno ognuna e poi se sono in rete tra loro? Dunque, che io sappia, Mutoi Duest Company è un nome che raccoglie diverse persone che sono un po' sparse per il mondo. Ci sono alcuni che stanno a Berlino, molti che stanno in Inghilterra e a Londra, credo qualcuno in Australia e poi c'è diciamo la base di Sant'Arcangelo che è diventata un punto di questa rete, di questo network. Al momento, per quello che io ne so, il momento in cui si manifesta la Mutoid West Company oggi è soprattutto durante il Festival di Glastonbury, dove loro gestiscono e allestiscono uno spazio ormai da moltissimi anni che si chiama Unfair Ground. Ed ecco, durante il festival le varie anime disseminate in giro per il mondo della Mutai Dues Company si ritrovano. Ecco, chiaramente stiamo parlando di Sant'Arcangelo e parlavi di riciclo e di installazioni. Ecco, spieghiamo un po' meglio, soprattutto per chi ci ascolta e non li conosce, il loro lavoro, il loro stile di vita. Sì, diciamo, loro fondamentalmente utilizzano oggetti meccanici soprattutto, non più in uso, e questi oggetti vanno, che ne so, dalla lavatrice al motore di un trattore, alla carlinga di un vecchio aeroplano, e a partire da questi oggetti ormai in disuso loro costruiscono delle sculture che possono essere anche mobili, nel senso sono dotate di motori e funzionano e diventano un'altra cosa, ecco. Massimo, volevo chiederti anche come avete realizzato questo lavoro, come è strutturato il documentario. Diciamo, questo lavoro nasce su un invito del Festival di Sant'Arcangelo, che sono i primi produttori di questo documentario, e fa parte di un ciclo di documentari che si chiama Città Temporanee, che noi stiamo facendo in giro per l'Europa da 4-5 anni, che sono ritratti di luoghi molto definiti all'interno di città. Ora, nel caso di Sant'Arcangelo, il campo dei Mutoidi era interessante per noi perché era una situazione temporanea che è diventata stabile e che è diventata, diciamo, un piccolo quartiere distaccato del paese di Sant'Arcangelo, e noi semplicemente siamo stati lì con loro per 4-5 settimane, e il lavoro non era tanto sulla storia della Mutai Dues Company quanto sulla vita al campo, cioè sul loro modo di vivere in quella situazione. Oh, è stato presentato all'ultima edizione del Festival del Cinema di Roma, e volevo chiederti anche quali saranno i passaggi successivi per una visibilità. Al momento stiamo collaborando con una distribuzione qua di Bologna che si chiama Bofilm, e l'idea è sia di farla circolare nei vari festival del cinema e di documentari, ma anche di avere una piccola distribuzione in sala, ed è la cosa su cui stiamo lavorando ora. Diamo dei riferimenti web? Il nostro sito è zimmerfrei.co.it, dove potete trovare proprio un archivio dei nostri lavori. E invece, per quanto riguarda i Mutoids, non hanno un vero e proprio sito, mi pare, però hanno una pagina Facebook molto attiva che si chiama Promutoid. Massimo, io ti ringrazio, magari ci sentiamo in occasione di una distribuzione. Sì, invece per i romani ricordo che per voi romani, amici romani, che c'è uno dei film che fanno parte di questa serie delle città temporanee, che è quello che abbiamo girato a Budapest, che si chiama Temporary 8, e che è in programmazione al Festival Arcipelago, al Cinema Ambra, alla Garbatella, proprio in questi giorni. Benissimo. Ora, insomma, invito ad andarlo a vedere. Eh certo. Io ti abbraccio, Massimo, e a presto. Ciao. Ciao ciao. Massimo Carozzi, del collettivo Zimmer Frey, regista del documentario Hometown Mutonia. Visionari su Radio Onda Rossa il giovedì dalle 14 alle 15. Parliamo ora di una nuova creatura di Zalab, con Stefano Collizzoli, regista del documentario Il pane a vita, che avrà 3 presentazioni in questi giorni a Bergamo, a Milano e qui a Roma, il 5, 6 e 7 dicembre. Stefano, benvenuto. Grazie Federico. Dici un po' di questo Il pane a vita, cos'è? Ah, è un film documentario che nasce da un anno di lavoro e cerca di raccontare la crisi, le conseguenze della crisi sulla vita delle persone, seguendo tre operaie delle valli bergamasche, quindi di una terra di lavoro, che hanno avuto la loro fabbrica chiusa in 3 giorni l'anno scorso e da allora sono in cassa. Come siete venuti a conoscenza di questa storia e come avete poi deciso di raccontarla in un documentario? Beh, il film nasce da una commissione, in questo caso da un incontro con Caritas Diocesana di Bergamo e con Fondazione Bernareggi. È stato un incontro molto interessante perché siamo delle realtà molto differenti e abbiamo trovato però nello sguardo sulle persone e nella esigenza condivisa di porre il problema civico e politico della fine di un modello di lavoro uno spazio per collaborare in modo attivo. Ecco, proprio a proposito di un sistema, di un modello di lavoro, com'è la situazione industriale nell'area bergamasca? Immagino che questa sia una storia piuttosto emblematica di quella che raccontate. Ma a dire il vero, Bergamo è e resta, come altre province lombarde, uno dei posti dove la crisi ha toccato meno in Italia. E anche per questo era interessante raccontare questa storia lì e non in altri luoghi. Sì. Perché persino dove ha toccato meno molto poco la situazione è drammatica. L'Italia sono 25 anni di fila che perde capacità industriale, cioè ogni anno si produce un po' meno, da 25 anni di fila, quindi non è solo questa crisi, è un percorso più ampio di declino, di decadenza che sembra inarrestabile. Negli ultimi 5 anni, anche nei luoghi dove finora insomma si era retto, come appunto la provincia di Bergamo, che è una delle più ricche di lavoro d'Italia, ha chiuso una fabbrica su 4. Ecco. Il film è su una fabbrica, quindi dico fabbrica, ma in realtà ha chiuso un'attività su 4. Non solo una fabbrica. Sì, sì. Stefano, ecco, da un punto di vista femminile che avete scelto, quali sono le reazioni a questa, le soluzioni a questa catastrofe lavorativa? Ma il punto di vista femminile in realtà non l'abbiamo scelto, è stato un po' lui che ha scelto noi, semplicemente perché nella stessa situazione, quindi un momento di perdita di lavoro che non... è difficile pensare di ritrovare, le protagoniste sono ancora senza lavoro dopo un anno e la situazione è molto dura, gli uomini si spappolano, le donne mantengono una capacità, una solidità personale, una capacità di racconto, gli uomini ci hanno provato ma non è possibile. Il punto di vista femminile è un punto di vista femminile molto bergamasco in questo caso. Quello che a me interessava è, da un lato, quanto si perde, nel senso che non è solo una questione di sopravvivenza, anzi non è del tutto una questione di sopravvivenza, intenzionalmente non abbiamo cercato le situazioni più drammatiche, ma delle situazioni in cui comunque la vita quotidiana, insomma il pane, era salvo. Quello che si è perso è il senso di un'identità. Sono traiettorie lavorative diverse da quelle della mia generazione, la generazione dei trentenni, dei quarantenni, traiettorie lavorative in cui il lavoro era tutto, in cui c'era un patto sociale per cui il lavoro era un posto per tutta la vita, in cambio della realtà c'era la sicurezza del posto di lavoro, in cambio del lavoro c'era la pensione, tutte cose perché a 30 anni sono saltate a priori anni fa, per chi ne ha 40 e 50 sono saltate da un momento all'altro e senza che questo fosse in alcun modo previsto, quindi la prima reazione ha un senso di proprio di mancanza di terreno sotto i piedi, è come se fosse scomparso una montagna, un fiume, qualcosa che credevi fosse immutabile. Poi quello che a me piaceva, che ho trovato più nelle donne che negli uomini appunto, è la grande capacità di mantenere e ricostruire una dignità anche dentro questo vuoto inspiegabile per cui non ci sono strumenti. E quindi l'orgoglio, la forza di reagire, la capacità di costruire la giornata ugualmente, di raccontare questa storia e di cercare un'alternativa anche se poi non la si trova. Ecco, proprio a questo proposito, c'è la capacità e la volontà di fare comunità? È molto difficile, questo è un po' dove vorrei che arrivasse il film, nel senso che quello che ho visto non solo nella provincia bergamasca ma anche facendo ricerca è che la via d'uscita più facile della crisi non è verso la comunità, quella la via d'uscita più, come dire, più automatica è verso l'isolamento, verso come dire, la lotta fra poveri, mentre occorre, però occorre uno sforzo cosciente, occorre un ragionamento per provarne a uscire da un altro lato, per capire che c'è un modello economico che è finito ed è inutile che si continui a dire che la crisi passa tra 3 mesi o 6 mesi, sono 5 anni che lo dicono, o che si provino ad attuare piccoli correttivi per vedere se si riesce a tenere in piedi la baracca. Occorre ripensare radicalmente al modello economico. Il titolo Pane a Vita? Il titolo nasce dal film, nasce da quello che tutti i personaggi mi dicevano per raccontare il loro rapporto con il lavoro. Naturalmente io ho incontrato, intervistato, ho seguito molti più personaggi che le 3 donne che poi sono le protagoniste del film, e c'era questa specie di filo rosso che li univa. Tutti dicevano hai trovato il pane a vita. E mi era molto piaciuta. Dopodiché il pane a vita è anche un po' quello, appunto, come dicevo, dove vogliamo che vada il film, nel senso che ora che è finito il pane ed è finito il pane, occorre reinventarsi la vita in qualche modo. La presentazione a Bergamo il 5, a Milano il 6, a Roma il 7, dove, Stefano, a Roma? A Roma sarà al Cinema Trevi, dico del Puttanello, a Milano al Mandaritroso, all'Auditorium San Fedele, a Bergamo al Cinema Concaverde. Durante queste 3 proiezioni, che sono un po' l'anteprima diffusa del film, sul sito di Zalab, che l'ha prodotto e l'ha coprodotto, sarà possibile per chi non è né a Bergamo, né a Milano, né a Roma, e solo per questi 3 giorni, vederlo in streaming, in video on demand. E dopo queste 3 proiezioni il film inizia il suo percorso a Bergamo, verrà proiettato il 12 ad Albino, che è la città dove è stato girato, che è una proiezione per me molto importante. Poi ci sono altre proiezioni a Bergamo, a Milano, a Macao, e così via, e poi da gennaio invece lanciamo la distribuzione sul territorio nazionale. Allora io ti abbraccio e ci sentiamo per le novità. Ti ringrazio molto. Ciao Stefano. Un saluto a tutti gli ascoltatori, ciao. Stefano Collizzoli, regista del documentario Il pane a vita. Visionari su Radio Onda Rossa, per quanto riguarda il sito internet della radio ondarossa.info, là trovate la scaletta alla voce trasmissioni visionari, e poi c'è la pagina Facebook, mentre per comunicare con noi l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Allora, siamo in collegamento con Andrea Fenoglio per parlare con lui del progetto La Terra che Connette. Andrea già era stato nostro ospite per un suo documentario, un lavoro precedente. Ci sei, Andrea? Sì, ci sono. Oh, ben ritrovato a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie. Allora, un progetto di cui mi hai scritto, che mi interessava portare all'attenzione anche con il tuo aiuto per spiegarcelo. Cos'è La Terra che Connette? Ma La Terra che Connette nasce a giugno di quest'anno per andare a documentare la situazione di Saluzzo, del saluzzese, un terzo comparto frutticolo italiano, dove da anni attira gli immigrati di tutto il paese ad andare a lavorare. Ci sono in sostanza 3.000 posti di lavoro stagionali, e negli ultimi 4-5 anni si assiste a questo fenomeno degli immigrati di origine africana che hanno iniziato a venire stagionalmente a lavorare. Tutto questo ha fatto nascere tutta una serie di problematiche territoriali che io ho voluto iniziare a documentare tramite un blog che si chiama appunto La Terra che Connette, tramite una serie web, una serie di piccoli documentari che documentano da una parte la situazione dei migranti e dall'altra parte la situazione degli autoctoni nel momento di crisi economica e culturale che viviamo. In sostanza vuole sì essere uno strumento di conoscenza per il territorio, però vuole uscire dal territorio trattando dei temi universali. Oh, quali sono le criticità che hai incontrato, Andrea, su questa tematica, su questo universo, e quali gli scopi, insomma, di questa operazione che ti sei prefissato? Ma gli scopi sono quelli di sperimentare il prodotto documentaristico anche per altri fini. L'ho detto, sì. Vuole essere uno strumento di conoscenza del territorio, per il territorio, e che parte da un territorio specifico per andare al di fuori. Sì. Sperimentare nuovi strumenti, perché costruendo questa serie web, già nel mentre che sto raccogliendo il materiale per un documentario a venire, vuol dire anche costruire quello che ho chiamato una startup culturale, cioè un elemento che possa essere utile fin da subito al territorio e dialogare fin da subito con il territorio. Ecco, ti chiedevo anche delle criticità che le problematiche, sì. Sì, le criticità. Beh, ovviamente la criticità maggiore è quella, perché prima io ho parlato dei lavoratori coinvolti in questo comparto frutticolo, che è appunto il terzo a livello nazionale. La maggior parte dei lavoratori immigrati sono stanziali, cioè ci sono gente che è arrivata dall'Albania, dalla Romania, dal Marocco, dalla Polonia, e molto spesso si è stanzializzata sul territorio. L'altra grossa fetta, che però è appunto la criticità maggiore, è quella dei migranti africani, che da 4-5 anni vengono solo stagionalmente a cercare lavoro. Questo ha fatto nascere la problematica dell'accoglienza, no? Quest'anno nello specifico la Coldiretti, il comune, la Caritas hanno dato un'accoglienza per all'incirca 250 persone, però il fatto che sono venuti altre 600 persone senza avere la possibilità di avere un'accoglienza. Questo ha fatto nascere un vero e proprio campo abusivo, che si è trasformato in un villaggio fatto di tende, di cartone, nylon, tutto recuperato nell'isola ecologica vicina, e nelle boscaglie anche vicine, quindi fatto tutto con materiale di recupero, e questo è diventato un villaggio nel paese di Saluzzo, che è una piccola cittadina di 17.000 abitanti, e questo villaggio è lì ed è rimasto. Adesso è stato smantellato da poco, e comunque è stato la problematica, ha rappresentato la problematica principale di quest'anno dal punto di vista istituzionale, dal punto di vista politico, e attraverso il blog e attraverso anche i social network, nel lavoro uso molto sia Twitter che Facebook che Instagram. potete seguire, no, questa dinamica, queste dinamiche. Ecco, a questo proposito volevo chiederti quante persone al momento sono coinvolte nel progetto e poi chiaramente i riferimenti web. Certo, al momento io sono lo sto portando avanti in particolare io con tutta una serie di collaboratori che prestano la loro professionalità gratuitamente. Io li ringrazio di questo. Potete vedere i collaboratori sul blog, e man mano i collaboratori si stanno, diciamo, moltiplicando da chi collabora per il web, quindi Diego Mometti, chi fa le musiche per i piccoli documentari, che è Luca Storero, e via via tutti gli altri che costruiscono comunque una rete sociale, no, che mi permette di fare questi, di costruire questi episodi. I riferimenti web sono principalmente dal blog, poi si può andare su tutti gli altri riferimenti. Il blog è laterrateconnette.wordpress.com, e ricordo anche che in questo mese di dicembre è aperto il crowdfunding per il lavoro, che è una parte di finanziamento per il lavoro che va a continuare nel prossimo anno, ossia nei 2 anni io riuscirò a costruire il materiale per il documentario finale. Bene Andrea, ti ringrazio, ci risentiamo poi per gli sviluppi. Va bene, senz'altro. Un abbraccio, a presto. Grazie a voi. Ciao. Buongiorno. Andrea Fenoglio per quanto riguarda il progetto La Terra che Connette. Bene, ritroviamo non in ambito teatrale ma cinematografico questa volta l'attore Andrea Perdicca. Intanto ben ritrovato a Radio Onda Rossa, Andrea. Ciao a tutti, grazie. Tu sei stato il primo del radioteatro, Il fiume rubato, era lo spettacolo con cui abbiamo aperto questa avventura di teatro in radio, e questo spettacolo ora sta diventando un documentario. Sì, no, hai aperto la parentesi, ricordo benissimo quando abbiamo fatto la registrazione del fiume rubato lì da voi, Radio Onda Rossa, bellissima, bellissima. Era un febbraio, sì. Sì, sì, me la ricordo, guarda, ancora benissimo. 2008 addirittura. Come, non ho capito, scusa. Era il 2008. era il 2008, ed era la prima volta che affrontavo questa esperienza di far esistere, come dire, una narrazione teatrale in una versione radiofonica, quindi sì. L'avevo vissuta con grande piacere. Ok, scusa, chiusa parentesi, a parte questo. No, la cosa che mi dicevi, sì, è questo spettacolo teatrale che il fiume rubato, che appunto racconta della storia dell'Acnaricengio, in 100 anni di arco narrativo che ha tutto il pezzo, e nei primi 2 anni andavo in giro un po' nei teatri in Italia, dal 2008 uscì dai teatri per andare un po' fuori dai teatri e raccontare, come abbiamo sempre detto, una storia del popolo al popolo. Abbiamo fatto 99 date fuori dai teatri, in circoli, movimenti, associazioni, ma anche in spiagge, in ex e in chiese sconsacrate, siamo andati ovunque, facendo la 99esima data su in Valsusa, davanti con il Notav, davanti al cantiere, l'ottobre scorso, poi tra l'altro un anno fa. Sì. E quella, come è stata un po' la tappa conclusiva, ma l'ultima settimana di viaggio di questa tournée, un cameraman ci ha seguito e ha ripreso un po' questo modo di portare il teatro fuori dai teatri, questo modo di salire su un treno con un carrello, l'attrezzatura, gli zaini in spalla, viaggiare in giro per l'Italia con treni regionali e andare ovunque a raccontare questa storia. E quindi queste riprese di una settimana, non so, erano 18 ore di montaggio, sono diventate, ecco, un film documentario di 50 minuti che si chiama Il viaggio del fiume rubato, dove si vede un po' questo nostro modo di viaggiare, di incontrare le persone, di essere accolti ogni volta in posti diversi e tante platee diverse ogni sera, e poi l'accoglienza anche dopo lo spettacolo, i commenti delle persone su quest'unica storia che racchiude un po' in sé tante storie simili, tante storie che in Italia esistono con altri nomi, e quindi tutto sintetizzato in un film documentario, appunto, che ora è partito un'azione di crowdfunding, quindi una produzione dal basso, andando su, citando Il viaggio del fiume rubato, produzioni dal basso, si arriva a questa piattaforma dove viene spiegato tutto e come eventualmente partecipare per sostenere questo DVD che all'inizio del 2014 spero uscirà e andrà in giro in più canali. Sì. Oh, facciamo un passo indietro per chi ci ascolta, anche per i più giovani e chi non conosce la storia dell'Acna di Cengio. In breve, come la racconteresti in poche parole, Andrea? Ma in poche parole è questo, che con Alessandro Elman nel 2004, Alessandro Elman autore del libro Cent'anni di Veleno, che è stato stampato poi con edito stampa alternativa nel 2005, abbiamo fatto con lui un anno di raccolta di questa storia, materiale, documentari, interviste, una storia di 100 anni, che per la prima volta viene messa insieme. Questa storia parte alla fine dell'Ottocento, dove fu, come dire, costruito in Valle Bormi da Cengio il dinamitificio Barbieri, si chiamava all'epoca, quindi prima, seconda guerra mondiale, questa industria che produceva polvere da sparo, tritolo, dinamite, quindi un'industria bellica che dava lavoro ai contadini di quelle zone, che naturalmente appena hanno visto l'opportunità di un lavoro in fabbrica l'hanno subito accolta come un po' un riscatto sociale, con tutto quello che significa storicamente in quel periodo. Però nel frattempo questa fabbrica ha cominciato subito a scaricare e inquinare il fiume Bormida. Dopo la seconda guerra mondiale la fabbrica si converte e diventa una fabbrica di coloranti chimici, e quindi prende il nome di ACNA, Aziende Chimiche Nazionali Associate, e quindi diventa la storia della chimica italiana e nel mondo, che arriverà agli anni Ottanta con Raul Gardini, Craxi, Enimont, Montedison, e quindi è tutta questa avventura di una industrializzazione con dei risvolti negativi, di appunto devastazione di territorio, questa fabbrica che scaricava nel fiume Bormida, devastando completamente agricoltura, raccolti, la salute, morti all'interno della fabbrica, fuori della fabbrica, cancri, tumori alla vescica, e quindi una devastazione. Contemporaneamente a questa situazione drammatica che è cresciuta per tutto il Novecento come simbolo di un'industrializzazione fuori controllo, e contemporaneamente procresceva anche una resistenza dei valligiani, una resistenza dei contadini piemontesi, perché la fabbrica nasceva proprio sul confine tra Liguria e Piemonte, nasceva in Liguria e poco dopo scaricava nel Piemonte, perciò l'impatto negativo l'ha ricevuto il Piemonte, che si è, come dire, organizzato in una lotta continuativa negli anni 50 con Giolitti, e poi negli anni 80 la rinascita della Valle Bormida pulita, associazioni, movimenti, denunce sono arrivati all'opinione pubblica attraverso giornali, mass media, e questa cosa negli anni 80 è venuta fuori creando appunto scalpore, che è stata chiamata l'ultima guerra civile italiana, perché mise insieme veramente un popolo che si era mosso verso dei diritti, diritti alla salute. E adesso poi il problema è eliminare questi residui tossici chimici. Andrea, per saperne di più, ma anche per contribuire alla nascita di questo documentario, diamo di nuovo i riferimenti? Certo, assolutamente. Allora, visitando su Google Il viaggio del fiume rubato, vedrete come apparirà appunto questo indirizzo, questo link di produzioni dal basso. Entrando Il viaggio del fiume rubato, produzioni dal basso, si apre una schermata che è la piattaforma del crowdfunding, dove viene spiegato appunto i modi, i tempi, la poetica, di questo lavoro, e cosa è stato fatto, cosa stiamo facendo e cosa ci si propone di fare. Quindi una volta arrivati lì si condivide questo viaggio in tutta la sua storia, sia artistica che appunto di contenuto in sede di racconto, e quindi della lotta contro l'acne di cingio, o chi per essa adesso continua ad essere l'acne di cingio ancora. Andrea, io ti abbraccio e poi ti do appuntamento, spero a presto, perché è mia forte intenzione, lo sai bene, un desiderio di avere di nuovo la tua voce qui con lo spettacolo che hai realizzato successivamente, quello sulle api, e spero di averlo presto e di poterne parlare nuovamente con te. Va bene, con gran piacere, non vedo l'ora anch'io, d'accordo. Ciao, a presto Andrea. Ok, un abbraccio, a presto, ciao. Ciao. Andrea Perdicca sul progetto documentario Il viaggio del fiume rubato. Allora, in scaletta avevamo messo Sergio Ponzio per parlare della riapertura del Cine Club de Tour oggi, giovedì 5 dicembre. Lo facciamo con Cristina, che salutiamo. Ben ritrovata, Cristina. Ciao a tutti, ciao a tutti gli ascoltatori. È un piacere risentirvi dopo tutto quello che abbiamo passato. Ma voi lo sapete tutti molto bene. Sì. Siamo contenti della prima serata. Grazie ancora, Federico. E niente che dire, stasera iniziamo bene con una serata basca che fa parte della settimana basca, e con l'associazione Oscara, e con un documentario molto divertente sempre sulla cultura basca. Ci sarà un piccolo aperitivo offerto dall'associazione, sempre Oscara, con piccoli stuzzichini baschi di cui non ho idea, ma saranno sicuramente buonissimi. Siamo pronti a tutto. Io dei Paesi Baschi ricordo il calimocio, ma non so se questa sera. Ah, bravo, sì, ma beh, quello speriamo di no. E poi niente, poi si parte, ecco, col detour. Adesso stiamo lavorando alla programmazione, sì. Ma ancora, diciamo, stiamo ancora facendo gli operai nel locale. Siamo sempre, usciamo sempre sporchi di calce e colore. Quindi la parte intellettuale ancora non è partita, però siamo contenti, siamo bene. Molto contenti, vi aspettiamo tutti. Allora, due parole sul documentario, se ne sai qualcosa in più per chi ci ascolta, Cristina. Guarda, è su una produzione di formaggio da parte di una famiglia, di più non ti so dire perché mi avete colto alla sprovvista, però la cosa fantastica di oggi è che la tessera, questa è una cosa fantastica direi, tessera Arci 2014 costa solo 3 euro invece di 8. E io e poi sinceramente mi trovi diciamo, guarda, che con loro, con la sezione Oscara, lavoriamo da tanti anni, sì, e sì. Li lasciamo sempre scatola, no, come si dice, carta bianca, sì. Carta bianca, perché fanno sempre una scelta culturale, politica, umana, è un'associazione molto attiva, e sinceramente qualsiasi cosa noi diciamo sempre di sì, perché è sempre un successo e loro sono fantastici. Bene. E noi proprio carta bianca, ci facciamo una serata, sì. A prescindere. Senti Cristina, diamo i riferimenti per il Cineclub, per tutte le certo. attività da qui ai prossimi tempi? Certo Federico, allora il sito, per chi ancora non lo conoscesse, è www.cinedetour.it, detour, Cinedetour, controllatelo, perché ci saranno eventi che verranno appoggiati piano piano, e per iscrivervi alla newsletter basta andare sul sito, è molto semplice, va in automatico, e essendo diventati soci Arci, i soci Arci sono ovviamente di stra benvenuti, e la mail è cinedetour.tiscali.it, e accettiamo proposte come sempre da tutti i nostri soci, e siamo aperti non a ogni tipo di collaborazione, ma a ogni tipo di collaborazione che venga anche dai vostri ascoltatori. Benissimo, a questo punto io ti ringrazio e ti abbraccio e ci vediamo lì. Grazie Federico, ma vieni stasera? Stasera non garantisco. Dai, a presto. Però allora. A presto, dai. Un abbraccio, grazie. Ciao. A tutti. Ciao. Cristina, per quanto riguarda la riapertura del Cine Club de Tour proprio oggi, giovedì 5 dicembre. Allora, non era previsto in scaletta, però abbiamo Andrea Corrado perché oggi c'è la presentazione di un suo libro in un pugno di minuti. Intanto ben ritrovato Andrea. Grazie, ben ritrovato a voi, a te e a tutti voi. Allora, Cinema e autori sulle tracce delle migrazioni, una presentazione oggi alle 17 alla scuola di cinema documentario Cesare Zavattini in via Ostiense 106. Cos'è questo libro, Andrea? È un percorso in 120 film, una ventina di documentari sulla migrazione raccontata nel cinema italiano, a cominciare dal film di Fumari, Migrantes del 1915, fino agli ultimi di questi anni, dove la migrazione raccontata è quella verso l'Italia, quindi degli immigrati. È un percorso interessante perché, almeno per chi, per noi che l'abbiamo compiuto, perché evidenzia alcuni aspetti importanti dell'incontro tra migrazioni e cinema italiano. Intanto posso continuare a parlare? Sì, abbiamo, ti ho detto, qualche minutino, vai tranquillo. E intanto si mette in luce come la migrazione non sia mai stato un tema facile nel cinema italiano. Prima, durante il regime fascista, quando parlare di migrazione significava ammettere, si era disfattisti, no? E delle difficoltà sociali. Sì. Poi nell'immediato dopoguerra sappiamo bene che il principio era andiamoci cani sporchi in casa e non in pubblico, e quindi film come quelli di Germi, Il Cammino della Speranza e altri, anche con questo Tonelli, incontrarono sempre difficoltà nell'essere diffusi, capolavori che venivano tenuti sotto silenzio dal potere dominante, diciamo. Sì. E poi, se facciamo un salto agli ultimi 20 anni di cinema italiano, vediamo come l'immigrazione, questo fenomeno enorme, iniziato alla fine degli anni 80, è stato raccontato spesso scegliendo di usare di utilizzare l'immigrato come occasione per evidenziare nevrosi, contraddizioni della società italiana, più che per raccontare le persone che hanno compiuto questo percorso fatto di dolore e di disagio. Ciò nonostante, ci sono bellissimi esempi del cinema attuale, autori e soprattutto documentaristi, a dire il vero. Sì, infatti tutto grazie soprattutto al documentario, sì. Sì, che hanno fatto un passo indietro rispetto al racconto, rispetto alle persone che hanno lasciato parlare le storie. Sì. E riferisco ai film di Giovannesi, di Segre, di Costanza Quatriglio, sono stati dei documentari bellissimi. Sì. Tanto per citarne alcuni, perché ce ne sono altri importanti. Lo stesso Pialese, con Nuovo Mondo, ha esplorato la migrazione italiana in uscita in una maniera straordinaria. Sì. Senti Andrea, io purtroppo siamo in chiusura, ricorderei l'appuntamento di quest'oggi alle 17 alla scuola di cinema documentario Cesare Zavattini in via Ostiense 106, e poi anche un riferimento web, se ce lo dai. Il riferimento web è quello www.diessonline.it, che è quello della casa editrice. Ripetilo, che si è sentito poco. www.edsonline.it. Va bene, io ti ringrazio. Sono io che ringrazio te, ringrazio tutti voi. Un abbraccio, a presto Andrea. Grazie, grazie. Ciao. Andrea Corrado, appunto, per parlare di questo libro che verrà presentato oggi, Cinema e Autori sulle tracce delle migrazioni. È tutto per Visionari, torna giovedì prossimo dalle 14 alle 15. Le info le trovate sul sito della radio, ondarossa.info, la voce trasmissioni Visionari, poi c'è la pagina Facebook e poi l'indirizzo di posta elettronica visionari@ondarossa.info. Buon proseguimento!